sempre volevo che fosse tutto diverso. Sto cominciando ma mi sembra di aver perso. Io che sorrido poco, fammi una messa a fuoco, che questa volta sorrido un po' come nelle foto. Alla ricerca della fama come Charlie Bronson, casini per una puttana come Charlie Bronson. È troppo piccolo per tutti e due questo mondo. O nasci furbo, o nasci stupido, diventi stronzo. Prometto di dire la verità a vostro onore. Ho spezzato molti cuori e poi mi hanno spezzato il cuore. Ho dato tutto per niente, sempre lottato per niente. Voce in testa che sembra di stare in un call center. Tre giorni in ospedale, mia madre che stava male. Mio fratello che in preda alla rabbia non riusciva a respirare. E a me? Che cosa mi rimane? Mio padre mi parla solo per sapere se ho portato fuori il cane. Alla ricerca della fama come Charlie Bronson, casini per una puttana come Charlie Bronson. È troppo piccolo per tutti e due questo mondo. O nasci furbo, o nasci stupido, diventi stronzo. Alla ricerca della fama come Charlie Bronson, casini per una puttana come Charlie Bronson. È troppo piccolo per tutti e due questo mondo. O nasci furbo, o nasci stupido, diventi stronzo. Le volte che ho preso batosta in freestyle, la prima volta sul palco stai certo non si scorda mai. L'amico che non vedo perché sta in comunità, e la mia ex ormai se l'è passata tutta la città. Maledetta brasiliana, maledetta primavera. Ho perso il conto delle volte che non sei stata sincera. Ho una maschera di ferro e le ali fatte di cera. Fumo così tanto che la mia anima adesso è nera. Le Jordan, gli snap, la ganja, il rap. Esprimere se stessi solo dopo il mic check. Le sfide, gli MC, la crew, i GVT. Un fratello come Ermo ed Eclipso sopra il beat. E chi mi ha detto lo fai solamente come moda? Mi odi così tanto, prego mettiti in coda. Sembra un circolo vizioso, se non hai capito cosa, state a mordervi a vicenda, ogni giorno sempre la coda. Si cade per rialzarsi, vai dritto e non voltarti. Non dare retta agli altri se cercano di fermarti. Domani è un altro giorno, se credi in ogni sforzo, raggiungere il successo come ha fatto Charlie Bronson. Alla ricerca della fama come Charlie Bronson, casini per una puttana come Charlie Bronson. È troppo piccolo per tutti e due questo mondo. O nasci furbo, o nasci stupido, diventi stronzo. Non fermarti mai, non voltarti mai. Non fermarti mai, non voltarti mai. Non fermarti mai, non voltarti mai. Non fermarti mai, non voltarti mai. Non fermarti mai, non voltarti mai. Non fermarti mai, non voltarti mai. Non fermarti mai, non voltarti mai. Non fermarti mai, non voltarti mai. Buttami ancora a terra, ma tanto mi rialzo. Sono pronto alla guerra, meglio che mi fai spazio. Fammi fumare l'erba, ma tanto non mi calmo. Fammi mangiare merda, non sono ancora sazio. Alla ricerca della fama come Charlie Bronson, casini per una puttana